fuori si fa sera. Che cosa c'è di strano? Fa sera tutti i giorni da quando sono nato. Cosa c'è? Fuori si fa sera. Che Guinness vuoi bruciare? A spingere le porte con scritto su tirare. Cosa fai? Dai. E i Frankenstein nascosti nell'armadio, palloni che non hanno mai volato, il clan dei panni sporchi aspetta giù l'uscita. Scusa un momento, io vado a rifarmi una vita. Si fa sera, che luna pensierosa, vorrei dimenticare, ma non ricordo cosa. Tu che fai, torni dalla pioggia, ti offro un temporale, dov'è che sei ferita? Dov'è che ti fa male? Dove vai? Il clown che stai cercando ha traslocato. Chissà su quale nave sei imbarcato. Se trovi l'Eldorado, mi mandi una pepita. Che confusione, io vai.